Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Pavin in collaborazione con Amisnet. Un saluto dalla redazione di Mediaset. Oggi concluderemo l'ultima di due puntate sul tema della Free Press, ossia dei quotidiani gratuiti, andando ad analizzare un saggio di Noam Chomsky, Il potere dei media, e alcuni scritti e articoli in merito di Pierpaolo Pasolini. Andremo anche a leggere brevemente, faremo un breve accenno allo scritto di Gallia Rosidi, Cultura di massa e comportamento collettivo. Con voi dagli studi di Amisnet, Cristiano alla voce e Andrea in regia. Scriva quello che le dico. Lei non ha capito niente perché è un uomo medio, è così? Beh, sì. Ma lei non sa cos'è un uomo medio? È un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, colonialista, razzista, schiavista, qualunquista. È malato di cuore lei? No, facendo le corna. Peccato, perché se mi crepava qui davanti sarebbe stato un buon elemento per il lancio del film. Tanto lei non esiste. Abbiamo parlato nella precedente puntata di cosa sono questi quotidiani gratuiti, dei grandi numeri relativi alla loro distribuzione, di chi c'è dietro questi quotidiani gratuiti, di come campano. Abbiamo fatto poi delle considerazioni circa la loro influenza sull'immaginario collettivo e sulla loro capacità di modificare la percezione della realtà dell'oggi. È evidente che non si tratta di fare qui una critica tout court ai quotidiani gratuiti, non fosse altro che a confronto dei classici giornali sono esenti da pedaggi, non hanno cioè un costo ed è una cosa che certamente non è irrilevante, alla luce della quale del fatto appunto che i quotidiani presenti a pagamento non hanno una differenza qualitativa così netta con questi. E però è evidente che il bombardamento al quale questi giornali sottopongono larghissimi strati della popolazione, bombardamento di una presunta informazione che appunto generano, ha degli effetti troppo rilevanti da dover essere per forza di cose analizzato e criticato. Anche perché, come già abbiamo detto e come ribadiremo in seguito, la loro funzione, ossia la funzione del cosiddetto quotidiano gratuito rispetto alla formazione critica, formazione del sapere, formazione circa la capacità di decriptare un mondo fin troppo pieno di simboli e simbolismi del cittadino consumatore oggi, è talmente importante che a nostro avviso non si può cominciare a parlare di informazione o di media prescindendo dai media gratuiti. Se la televisione è stata ed è tuttora mezzo di omologazione distruttrice, non si può non vedere nella Free Press un appendice della televisione stessa come media creatore di modelli imposti ed ennesimo cosostenitore dell'ideologia del consumo. appaiono i quotidiani gratuiti come una sorta di informatori passivi, simili alla TV, in questo appunto molto uguali al modello televisivo. A cosa porta questa cultura dell'informazione passiva? Verso quali modelli culturali spinge le masse? Pasolini stesso fa riferimento, con uno scritto peraltro attualissimo, alla rivoluzione del sistema di informazioni, che è stata ancora più radicale e decisiva. Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello reazionario e monumentale che però restava lettera morta. Le varie culture particolari, contadine, sottoproletari, operaie, continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli. La repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l'adesione ai modelli imposti dal centro è totale e incondizionata. I modelli culturali ideali sono rinnegati. Continuiamo con Pasolini, che appunto affermava che per mezzo della televisione il centro ha assimilato a sé l'intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un'opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto, cioè, come dicevo, i suoi modelli, che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un uomo che consuma, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un eugenismo neolaico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane. Continuiamo con lo scritto di Pasolini, che appunto dice che adesso, al contrario, i ragazzi cominciano a vergognarsi della propria ignoranza. Hanno abbiurato dal proprio modello culturale, i giovanissimi non lo ricordano neanche più, l'hanno completamente perduto, e il nuovo modello che cercano di imitare non prevede l'analfabetismo e la rozzezza. Nel tempo stesso il ragazzo piccolo borghese, nell'adeguarsi al modello televisivo, che essendo la sua stessa classe a creare e a volere, gli è sostanzialmente naturale, diviene stranamente rozzo e infelice. Se i sottoproletari si sono imborghesiti, i borghesi si sono sottoproletarizzati. La cultura che si producono, essendo di carattere tecnologico e strettamente pragmatico, impedisce al vecchio uomo che è ancora in loro di svilupparsi. Da ciò deriva in essi una specie di rattrappimento delle facoltà intellettuali e morali. Stell dich tot. Ja. Entweder wir wählen dich oder Haut. Du hast die Knarre als ich. Torniamo alle notizie vere e proprie. L'altra volta facevamo riferimento a un articolo apparso su disinformazione.it di Antonella Randazzo, che appunto dice che abbiamo visto come alcune notizie assumono un certo rilievo, soprattutto quelle che evocano emozioni. Ad esempio siamo stati indotti a parlare a lungo dei Pax. Una legge, quella sui Pax, che sarebbe stato ovvio approvare senza tanti problemi, mentre si occultavano, tra le altre cose, le spese ingenti per la difesa. Chi ha detto che parte del TFR dei lavoratori andrà per spese belliche? Le informazioni sono oramai a carattere tematico. Quindi passiamo dalla settimana in cui si parla delle aggressioni di alcuni tipi di razze di cani particolarmente aggressivi, alla settimana in cui si parla dell'omicidio della porta accanto, fino al momento in cui pare ci sia una nuova ondata di brigatismo. Tutto evidentemente svanisce dopo qualche giorno, fino al completo oblio. Spesso alcune notizie sono oggetto di sovrainformazione, ma si tratta di informazioni ripetitive che non spiegano davvero la questione e talvolta la manipolano. Paradossalmente il cittadino viene sommerso di informazione per fare in modo che rimanga disinformato. Continuiamo con altre considerazioni della stessa Randazzo, che afferma che la scelta delle parole è molto importante nel lavoro propagandistico. Ogni parola è evocativa di significati o di emozioni e quindi deve essere scelta accuratamente per ottenere gli effetti voluti. Ad esempio, per trasmettere un senso di negatività, i gruppi considerati pericolosi per il sistema, come gli ambientalisti, i no global e i comunisti, vengono definiti come radicali, fanatici o estremisti. La polizia viene chiamata forze dell'ordine. Thank you. statistiche possono essere utilizzate come un dato inoppugnabile e incontestabile, ma basta selezionare un determinato campione che possa alterare i risultati per dare l'informazione che si vuole. Accenniamo ora, a proposito di questo tema, ad un breve scritto di Galli Rositi, Cultura di massa e comportamento collettivo, edito da Il Mulino. L'uomo non appartenente alle elite privilegiate ha sempre incontrato enormi difficoltà per farsi un'idea, un'immagine, delle condizioni generali della società in cui viveva, su cui basare le proprie opinioni e le proprie scelte di tipo politico. La cultura di massa non può, quindi, avanzare specifiche proposte politiche. Pure terror for 400 yards, over and over, with one final back and forth rocking motion coming to rest. Wait! The beautiful paint job hopelessly marred. Quando lo fa, o tenta di farlo, la fa rientrare nel novero della propaganda. Ora, come è ben noto, l'atteggiamento del pubblico ricevente il suo set di attesa è ben diverso quando si mette in condizioni di percepire una propaganda e quando si mette in condizioni di ricevere il flusso della cultura di massa. Proprio in quanto si presenta come fondamentalmente diversa dalla propaganda, la cultura di massa diffonde immagini della società, valori e modelli di comportamento che influiscono sul modo di pensare delle persone, con implicazioni, sia pure indirette e difficili da valutare, anche sul loro modo di comportarsi in sede politica. Please, he tried to tamp out a bit of the burning ember that had leapt from the wreck onto his grimy coat sleeve, coughing blood. What's happened? He's inching towards truth. He strode off into the woods with the animal that still lives. He didn't glance back. Andiamo adesso ad analizzare il saggio Il potere dei media di Noam Chomsky. In questo saggio innanzitutto io partirei dalla definizione di elite che dà Chomsky, ossia l'elite è quella parte della popolazione che stabilisce i criteri di giudizio e i comportamenti da adottare. Nel suo saggio fa riferimento Chomsky al fatto al potere del ruolo appunto che hanno i media nella politica contemporanea, che ci obbliga a chiederci in quale tipo di mondo e società vogliamo vivere, in particolare in quali termini vogliamo che la nostra società sia democratica. Concetto alternativo di democrazia è quello secondo cui si deve impedire all'opinione pubblica di gestire i propri interessi e i mezzi di informazione devono essere e rimanere sotto stretto e rigido controllo. Il problema principale è: vogliamo vivere in una società libera o vogliamo vivere sotto l'egida di quello che si configura sempre più come una forma di totalitarismo autoimposto, con il branco confuso, ossia con le masse poste ai margini della vita politica e che vengono appunto distolte dagli eventi cruciali. Chi viene terrorizzato, chi grida slogan patriottici, che appunto tutto ciò teme per la sua vita e ammira con soggezione il leader che lo ha salvato dalla distruzione. Le masse ammaestrate nel frattempo eseguono passivamente gli ordini ripetendo gli slogan e la società stessa va incontro alla disgregazione. Dal punto di vista economico, continua il saggio, il vero prodotto è costituito dalla gente. Gli ascoltatori o i lettori di quotidiani sono il prodotto che deve essere venduto sul mercato ed è quello che serve per fare gli affari. Per esempio i media d'élite, fa riferimento appunto al New York Times o al Washington Post, cercano per la pubblicità di vendere la loro audience d'élite, che gioca un ruolo piuttosto importante anche nel determinare le regole e i comportamenti a cui i media di massa cercano in generale di adeguarsi. Hanno insomma precise risorse da immettere sul mercato che determinano il quadro di riferimento generale all'interno del quale dovranno operare tutti gli altri media. In sostanza ci sono alcune grandi industrie dei media che stabiliscono i confini e i contenuti dell'attività giornalistica di tutti gli altri. Si tratta di grandi compagnie fra le più redditizie del paese. Esse vendono l'audience d'élite agli altri media. Sistema di indottrinamento ben controllato, non si devono avere pensieri improponibili, non si possono né discutere né rifiutare, semplicemente perché non si possono e quindi non si devono pensare. Abbiamo quindi concluso la trasmissione di oggi con il saggio Il potere dei media di Noam Chomsky. Salutiamo tutti gli ascoltatori ricordando la nostra mail che è mediasetta@gmail.com. Oh, さりるぜ涙が濡れて拭いて笑ったドラウI'm not afraid to die.